Capitolo 30. Münster, Carnevale 1534. Il pisciatoio della guerra è la cantina. Se è il sangue degli uomini a irrorarne il corpo marcio, certamente l'urina che ne inonda il campo è la birra. Birra che gonfia lo stomaco dei maschi guerrieri, ne attutisce la paura prima dello scontro, ne esalta l'ebbrezza dopo la vittoria. Piscio che arricchisce smisuratamente i custodi della latrina. Non meno importante del sangue e del coraggio profusi per decidere le sorti di una battaglia. Pisce sul tuo nemico prima di colpirlo, potrebbe risvegliarsi, placare la sua ira, diradare quella nebbia che avvolge la brama di sangue. Potrebbe considerare assurda la sorte che sta per infliggere, o toccargli, e ritirarsi. Sono arrivati incazzati neri, se ne sono andati ubriachi fradici. 20 barili di birra, la riserva della cantina municipale. L'omaggio della cittadinanza di Münster ai fratelli del contado, con tanto di delegazione in pompa magna a riceverli sulla Judenfelder Tor. L'astio ottuso dei 3.000 contadini si è sciolto insieme alla schiuma. L'ulteriore pericolo scampato trasforma i festeggiamenti in un baccanale, ricco di momenti grotteschi. Accorre alla piazza del mercato un gruppo di donne scapigliate, mezzo svestite o addirittura nude. Si abbattono a terra, in posa di crocefisse. Si rotolano nel fango, piangono, ridono e si percuotono il petto invocando il Padre Celeste. Vedono sangue grondare dal cielo. Vedono fuochi neri. Vedono un uomo incoronato d'oro su un cavallo bianco che impugna la spada destinata agli empi galoppare nel cielo. Chiamano a gran voce il re di Sion, ma l'unico che potrebbe soddisfarle con la sua presenza di scena è a sbronzarsi in qualche taverna. La gente ride e si diverte, lasciandosi coinvolgere, come per una messa in scena di Jan il Leidano. Ma non il maniscalco Adriansson, stufo delle urla isteriche, che impugna l'archibugio e abbatte con un colpo la banderuola dal tetto di una casa. Rovina giù con un clangore terrificante. La scena si blocca all'istante. Le donne si riprendono come risvegliate da un incubo. Adriansson raccoglie gli applausi dei presenti. Nei giorni successivi si fa ormai sempre più chiaro che von Waldeck non riuscirà a tornare in città. Molti cattolici fanno i bagagli. Il rapporto di forza è tutto a nostro favore. Nemmeno i luterani possono più osteggiarci. Il borgomastro Tilbeck, da buon opportunista, si è perfino fatto battezzare da Rotman, forse sperando di essere rieletto. Jutfeld ci ha ricevuti in municipio e non ha potuto che prendere atto della nostra decisione di far votare tutti i capifamiglia alle prossime elezioni, senza alcuna distinzione di censo. Il piatto per lui era indigesto, ma un rifiuto da parte sua lo sarebbe stato di più. La cittadinanza è tutta per noi. Knipper Dolling e Kipper Brock si sono candidati. Ormai è chiaro che i ricchi mercanti non avranno più in pugno la città. Molti luterani fanno i bagagli. Raccolgono gli ori, il denaro, i gioielli, l'argenteria di casa, perfino i prosciutti più prelibati. Ma c'è da superare l'ispezione del cappellaio Sündermann, instancabile sentinella della piazza del mercato nei giorni della nostra vittoria. Wödermann il ricco, bloccato alla Frauentor, pistola alla testa, è costretto a cagar fuori i 4 anelli che si è infilati nel culo, mentre la bella signora subisce un indecoroso palpamento e i suoi servitori non riescono a trattenere le risate. Le proteste e i muliebri spingono a rimuovere Sündermann dall'incarico. Chi vuole andarsene può farlo liberamente, ed è proprio questa l'idea del nobile Johann von der Reche. Se non che la moglie e la figlia sono del parere che chi vuole restare possa farlo altrettanto liberamente e volano tra le braccia dell'amabile Rotman, che le accoglie in casa sua. Quando va a prelevarle, il vecchio coglione prende solo insulti. Scopre di non essere più né padre né marito, di non poter più usare il bastone sulle sue donne di casa, né dettare legge a proprio piacimento, e che anzi è meglio per lui se si dimentica di aver avuto una moglie o una figlia e se ne va a fare in culo il più lontano possibile. Mentre lascia la città, la voce della sua figuraccia si è già sparsa tra la popolazione femminile di Münster. Von der Reche scappa sotto una gragnuola di oggetti d'ogni tipo. Adriansson scassina la serratura con gli arnesi del mestiere. Entriamo. Una sala grande, mobilio lussuoso e tappeti. I legittimi proprietari non hanno nemmeno spento la brace nel camino prima di andarsene. Uno dei fratelli Brunt la rianima. La scala porta al piano superiore. Una camera da letto. Una stanza più piccola. Al centro una tinozza di legno, il lavabo e il secchio in un angolo. Sali da bagno e tutto l'occorrente per la cura personale di una nobil donna. Adrianson compare sulla porta, l'aria interrogativa. Annuisco. Mi piace? Metti a scaldare dell'acqua. Mi svesto. Allontano con un calcio la camicia e la giubba, un unico ammasso nero maleodorante. Via anche le calze. Bruciarle. In un grande armadio trovo dei vestiti puliti. Stoffa elegante. Andranno benissimo. Adrianson versa i primi due secchi fumanti nella tinozza, lanciandomi un'occhiata incerta. Esce, scuotendo la testa. Il coro giunge dalla strada. Arrivarono tronfi e sferraglianti. Se ne andarono lugubri e piangenti. Quella notte, dentro il cimitero, incontrarono un fantasma nero. Al borgomastro requisì la moglie, al porco vescovo annientò le voglie. Questa è la sorte, se incontri Gerda al pozzo, gli pesti i piedi e ti taglia il gozzo. Ma li senti? Nipperdolling irrompe, sghignazzando. Ti amano, li hai conquistati. Vieni, vieni a vedere. Mi trascina alla finestra. Una trentina di fanatici che esultano all'unisono appena mi vedono. Sei già nelle loro canzoni. Tutta Münster ti acclama. Si sporge. Mi mette una mano sulla spalla. Grida a quelli di sotto. Evviva il capitano Gerda al pozzo! Evviva! Viva il liberatore di Münster! Rido e mi tiro indietro. Knipperdolling mi trattiene e sbraita. Con voi abbiamo liberato Münster e con voi ne faremo l'orgoglio della cristianità. Viva il capitano Gerda al pozzo! Tutta la birra della città non potrà mai bastare per brindare alla sua salute. Schiamazzi, urla, lancio di oggetti. Knipperdolling frocione, isseremo la tua panza in cima al municipio, risate, boccali al cielo. Knipperdolling chiude la finestra salutando ad ampi gesti. Vinciamo. Vinciamo le elezioni, basta una tua parola e non ci sarà concorrenza. Indico la città oltre il vetro. È più facile scacciare il tiranno che essere all'altezza delle loro speranze. Forse il difficile viene adesso. Mi guarda perplesso, poi sbotta. Non fare il cupo. Quando avremo vinto le elezioni, decideremo come amministrare questa città. Adesso goditi la gloria. La gloria mi aspetta in un catino di acqua fumante.